futuro. Il futuro ha bisogno del passato, bambino di quarta elementare. Forse il bambino voleva dire, per fare delle ipotesi sul futuro, bisogna conoscere il passato, ma ha detto proprio come sopra riportato. Rispecchiasse o no le intenzioni del bambino, l'espressione è molto forte. Prendiamola per buona. Grafizzando il tempo con una retta, in ogni suo punto, la parte a destra, il futuro, ha bisogno della parte a sinistra, il passato, a meno di non considerare ogni punto come origine di una semiretta, cioè di un futuro senza passato. Avremmo così un tempo, e con lui un mondo, che genera se stesso in ogni istante. Poiché viviamo nel tempo e nel mondo con il ricordo di un passato, dovremmo supporre che anche questo passato si autogenera istante per istante come fa il futuro. È un'ipotesi che non soddisfa il nostro senso del tempo, che vorrebbe nettamente separati passato e futuro. Più soddisfacente quindi l'ipotesi espressa dalla frase in apertura, che il futuro abbia bisogno di un passato per distinguersi. Vediamo ora che cosa succede se coniughiamo questa ipotesi con quella nicciana dell'eterno ritorno dell'identico, secondo la quale il tempo, anziché da una retta, sarebbe meglio rappresentato da una circonferenza o, come vorrebbero altri, da una spirale. Anche in questo caso il futuro avrebbe bisogno di un passato su cui modellare se stesso. E se il tempo non fosse lineare, unidimensionale, ma consistesse di più dimensioni, come lo spazio, una delle quali percepita come reale, il presente, le altre due, passato e futuro, più altre ancora che non sappiamo, come immaginarie?